Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi buone letture, riflessioni su Beckham e dintorni e calcio internazionale. Anche qualche notizia, qualche commento, ma partirei subito proprio dal calcio internazionale dando il bentornato e collegandoci a Sky Sport 24 con Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, un saluto a tutti. Oggi saremo un pochino più sintetici perché appunto siamo ormai vicini a Natale e il calcio si è fermato, però visto che in Inghilterra si è fermato giusto ieri sera tardi e si è fermato con un altro pareggio interno del Chelsea, aggiornerei la classifica del campionato inglese. Ma il Liverpool rischiava onestamente il sorpasso nella partita di Goodison Park, il Chelsea aveva la possibilità di infilare un altro successo e quindi di scavalcarla. Non è successo e diciamo che la frenata delle ultime settimane, il Liverpool ha pareggiato all'Emirates contro l'Arsenal, ha di fatto accorciato la classifica, ha consentito all'Aston Villa, che è la vera grande rivelazione del campionato a questi livelli, di entrare nell'otto delle squadre che possono ambire anche a pensieri di Champions. Ovviamente il Manchester United, mentre nei ritagli di tempo andava in Giappone a vincere il mondiale per club, adesso il Manchester United ha 6 punti di distacco dal Liverpool e sono esattamente i 6 che il Manchester può conquistare contro Fulham e Wigan, quindi non contro due squadre impossibili, e dunque virtualmente essere lì in testa alla classifica. È una classifica nella quale l'Arsenal risulta leggermente attardato, ma l'Arsenal ha la considerazione di se stessa che deriva dal fatto che negli scontri diretti non ha mai perso e anzi spesso ha vinto. Questo non vuol dire moltissimo, perché nella caccia al titolo forse è più importante vincere sempre con le piccole. Questa è una cosa che regolarmente il Liverpool e il Manchester United fanno. A volte al Chelsea non riesce, tutto insieme ne risulta un campionato che è molto diverso in questo momento dal campionato italiano e dalla Liga spagnola. È un campionato più vicino alla Bundesliga, dove diciamo la testa è un po' più accorciata, è un po' più accorpata, e diciamo che se non dovessero succedere degli sconquassi nel periodo natalizio, penso che quando poi rivedremo più approfonditamente le inglesi a febbraio-marzo per quanto riguarda la Champions League, più o meno saranno ancora tutte lì. Certo, fermo restando che questo è stato il fine settimana certamente del Manchester United per due ragioni. La principale di stragran lunga è che ha vinto la sua Coppa Intercontinentale. La seconda per l'appunto è che sembrava, se non tagliato fuori quasi dalla classifica della Premier, e invece questa frenata duplice di Liverpool e Chelsea, e ormai prolungata, significa che, come hai già ricordato, il Manchester è praticamente in testa o comunque quasi in testa alla classifica. Sì, di fatto è lì, al di là poi che il Manchester faccia 3 piuttosto che 6 o 4 punti, insomma credo che al di sotto non scenderemo. Il Manchester è sempre stato considerato comunque lì, aveva questa gara col Fulham da recuperare e adesso ne ha anche un'altra col Wigan, ma a prescindere da questo la sensazione che si ha in Premier League è che il Manchester sia quasi una sorta della maglia rosa che sta in mezzo al gruppo a controllare, e poi quando comincerà la strada a salire sotto le ruote il Manchester sarà lì e magari qualcuno che ha fatto l'andatura, sempre per usare i termini ciclistici, potrebbe avere meno gamba nel finale. Quindi insomma il Manchester è di fatto rimane sempre la favorita numero uno. La maglia rosa ce l'ha perché ha vinto il campionato scorso comunque. Hai già ricordato la prospettiva da qui a 2 mesi di questo triplo confronto Italia-Inghilterra in Coppa. Mi pare che le novità, tutte negative peraltro, fino ad ora arrivino sul versante Arsenal-Roma. Ne avrà da 1 a 2 per un periodo da 1 a 2 mesi Totti, ne avrà per almeno 3, leggo stamattina dall'ultimo esame fatto, per almeno 3 mesi Fabregas, che si è infortunato gravemente e che insomma legamento del ginocchio destro, appunto prognosi almeno di 3 mesi, e quindi salterà mezzo campionato ormai, ma certamente gli ottavi di finale di Coppa, se non anche i quarti, ammesso e non concesso che poi vadano oltre la Roma. Sì, questa è una notizia gravissima perché il peso che ha Fabregas nell'economia dell'Arsenal è un peso, credo, nell'Arsenal insostituibile, nel senso che lui è veramente il capo del centrocampo, ma non solo, è veramente ormai una figura che va molto al di sopra della sua età, della sua esperienza e di tutto il resto, quindi non voglio far paragoni perché non ha senso mettere sullo stesso piano due infortuni. È chiaro che Totti ha un peso pazzesco nella Roma, tutto sommato devo dire che gli allenatori, sia Spalletti che Fabregas, che Wenger, hanno costruito le loro squadre per tentare sempre di sopperire al singolo. È anche vero che nella Roma, quando sono venuti a mancare Kwan e Mexes in difesa e i sostituti non erano all'altezza, è stato molto difficile per la Roma tenere un passo accettabile, prova ne sia che la Roma ha perso gran parte dei punti all'inizio del campionato. Per quanto riguarda l'Arsenal, diciamo che il centrocampo è forse il settore dove si può nascondere di più un'assenza importante, perché se hai dei difensori che fanno fatica o degli attaccanti che non segnano, questo è di evidenza più immediata. A centrocampo diciamo che puoi mescolare un po' di più, però la caratura che è ormai internazionale di Fabregas da un paio di stagioni, se non di più, è tale che mi porta a pensare che uno come Fabregas, davvero Wenger, e nessun sistema di gioco del mondo lo possa sostituire, quindi è veramente molto molto grave la cosa. Certo, Spalletti pare abbia già chiesto alla società di cercare un attaccante sul mercato a questo punto, perché i mesi per Totti potrebbero essere più due che uno. L'Arsenal, notizia di stamane, si è lanciata definitivamente su Arshavin, offrendo o è pronta ad offrire insomma una ventina di milioni di euro lo Zenit San Pietroburgo. Non ha le caratteristiche di Fabregas, però per l'appunto è mancandogli già Rosicchi e Walcott, insomma, è un giocatore che dalla metà campo in su comunque può farsi sentire, se torna a essere quello dell'europeo. No, certamente Arshavin è un giocatore che insomma può fare molto, può fare bene, ed è un giocatore che all'Arsenal tutto sommato può servire, non assomiglia nemmeno lontanamente a Fabregas, ed è però un giocatore che può servire proprio per i motivi che dicevi tu. L'Arsenal ha un sacco di infortuni e questa è una stagione nella quale Adebayor è meno produttivo dell'anno scorso, e quindi Arshavin gli può certamente servire. Ma ripeto, uno come Fabregas non si trova in giro, come non si trova in giro uno come Pirlo, come non si trova in giro uno come Totti, per cui cioè, stiamo parlando davvero di giocatori, certo, di un'altra categoria. L'Arsenal ha certamente anche problemi in attacco, perché Theo Walcott dovrebbe rientrare per il ritorno contro la Roma, forse non ce la farà per l'andata e comunque sarà un infortunio lungo. Lo stesso Eduardo che rientra dopo un anno di inattività non può certamente essere competitivo in questo momento, e quindi è ovvio che l'Arsenal ha questo genere di problemi e sono problemi veri, seri, che possono condizionare, se non hanno già in parte condizionato, il cammino dell'Arsenal, certo, che tra l'altro è l'unica delle grandi che sotto Natale ha una partita complicata. Ecco, appunto, perché adesso arriviamo lì e chiudiamo direi così per oggi il tuo intervento, perché in Spagna, con 10 punti di vantaggio del Barcellona su Siviglia, insomma, credo che la sosta sarà abbastanza lunga, nel senso dell'interesse perlomeno per il titolo. In Germania tutto è già fermo, in Francia tutto sta per fermarsi, e quindi mi pare che, poiché l'unico campionato che, come sappiamo bene, non solo non si ferma, non solo non lascia, ma raddoppia sotto le feste, allora vediamo così di anticipare qualcuna di queste sfide di Santo Stefano e dintorni. Sì, Santo Stefano e dintorni, ma quest'anno c'è un turno in meno, per cui ci sarà il classico Boxing Day il giorno di Santo Stefano, ci saranno le gare del weekend 27-28, che poi si trascineranno fino al 30, ma non ci saranno le partite del primo dell'anno, che invece l'anno scorso tanto successo di pubblico avevano avuto. La Premier ha quindi due turni sotto Natale, si ferma per il primo dell'anno, torna nel weekend 10-11, che è quello dove poi ricomincia il nostro campionato, fa però le coppe, perché ci hanno infilato la Carling Cup e l'FA Cup, che se infilassimo noi la Coppa Italia ci direbbe poco, per loro invece sono dei momenti molto molto alti, soprattutto nel periodo natalizio, e quindi l'ingolfamento del calendario è garantito. Però al posto di tre turni quest'anno ne hanno due, e non hanno infilato nel calendario delle partite di stracartello, insomma, tanto per loro non è un grande problema riempire gli stadi, no, certo, a prescindere, quindi certo, beati loro. Però ti ripeto, in questi due turni c'è solo Arsenal-Aston Villa il 26, che è un partitone a parer mio, e che è una partita che tra l'altro l'Aston Villa potrebbe anche vincere, e se lo facesse si accrediterebbe davvero ufficialmente anch'essa come rivale per il campionato. Appuntamento dunque per gli amanti della Premier League a venerdì con Arsenal Aston Villa. I migliori auguri di buon Natale a Fabio Tavelli. A voi e naturalmente a tutta la redazione, a te in particolare e a tutti gli ascoltatori, Gigi, grazie. Altrettanto, il calcio internazionale tornerà con il nuovo anno. Ne approfitto per dirvi che domani, 24 dicembre, andrà in onda una puntata speciale dedicata ai bambini, con un lungo appassionato intervento di Massimo Giacomini, presidente del settore giovanile e scolastico della Federcalcio, che racconterà l'approccio più corretto al calcio visto dalla parte dei bambini, dei genitori, degli istruttori, degli insegnanti. Credo che sarà una puntata particolarmente interessante e particolarmente istruttiva, pensata, lo ripeto, proprio per i bambini, i ragazzini, per il calcio giovanile. Notizie pubblicate dalla stampa, nella fattispecie dalla Gazzetta dello Sport. Sarà molto dura la punizione per Griselli, il guardalinea che ha sbagliato così gravemente sul gol di Maicon sabato a Siena. Griselli, secondo la Gazzetta, e secondo Collina, che qualcosa evidentemente ha lasciato traperare, ne avrà per un 3 mesi circa di squalifica, perché l'errore è stato considerato di alta gravità, giustamente. Alessandroni, guardalinea che ha sbagliato invece a Bergamo a vantaggio della Juventus, se la caverà in un mesetto circa, perché l'errore oggettivamente era pur sempre un errore, ma era un po' meno grave. E un altro assistente sarà squalificato ed è Biasutto, è quello che a Cagliari ha indotto all'errore il giovane arbitro Tommasi, facendogli in pratica fischiare quel rigore abbastanza assurdo a danno del Cagliari. C'è in più uno stop, e qui la durata non è ancora stabilita, c'è uno stop certo per Saccani, che ha commesso un altro errore giudicato abbastanza grave, non espellendo Maldini per fallo in chiara situazione da gol su Quagliarella. Sentiamo qualche voce tra quelle che Gigi Borghi ha selezionato per oggi. Per esempio Moratti, tra tanti altri argomenti, è tornato al paragone tra Mancini e Mourinho, cioè tra il vecchio e il nuovo, diciamo, alla conduzione tecnica dell'Inter. Sentiamo. Sono due persone diverse, Mancini e Mourinho, e ognuno ha dato il meglio di sé. Mancini, da un punto di vista di tenacia, di forza, di cercare di raggiungere contro tutto e tutti un risultato, e ce l'ha fatto. Mourinho, con una notevole professionalità e conoscenza anche del mondo internazionale, se vogliamo, anche se non si è espresso al meglio in Coppa dei Campioni, però è servito in campionato questa sua esperienza, e un atteggiamento di gruppo molto buono. Mourinho c'ha il fatto che si integra molto bene col gruppo, fa in modo che il gruppo si integri molto bene fra loro i giocatori, quindi è un ottimo esempio, è un professionista serissimo ed è una persona anche molto simpatica, che non fa male. Ancora un attimo di pazienza per i due ascoltatori collegati, volevo darvi due consigli, due suggerimenti di buone letture. Uno, un libro si chiama Quando il calcio ci piaceva più delle ragazze, è uscito da poco, già mi pare che il titolo dia un'idea, no? degli anni 60, anche 70, ma in particolare dei favolosi anni 60, raccontati da Marco Innocenti, che è un collega e un amico del Sole 24 Ore, che ha pubblicato questo libro, è uscito da pochi giorni, da Mursia Editore, Quando il calcio ci piaceva più delle ragazze. L'altra è La riscoperta di un grande del giornalismo italiano, applicato in particolare al ciclismo, si chiamava Bruno Raschi, e è scomparso ormai da 25 anni, che sinceramente, quando mi sono reso conto che davvero erano 25 anni, mi è sembrato incredibile. Lo hanno scritto, lo hanno firmato Giuseppe Castelnovi e Marco Pastonesi, che sono due uomini Gazzetta, due dei fedelissimi cresciuti nella scia di questo grande uomo parmigiano, parmigiano di montagna, come era Bruno Raschi. Il titolo è Bella e la sera, l'editore è Edith Vallardi. Mario ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Dica. Mario, sono tifoso dell'Atalanta. Sì. Io volevo parlare un po' degli errori arbitrali di domenica scorsa, ma in senso diverso di quello che si può pensare. Allora, secondo me domenica l'Atalanta ha incontrato lo Juve nella domenica sbagliata, e mi spiego. È capitato il giorno dopo l'errore di Siena, che è stato grave, ma è stato l'unico a Siena, mentre invece nella partita dell'Atalanta non è stato l'unico e sono stati parecchi. E mi spiego perché è capitata la domenica sbagliata. Perché se per caso l'Atalanta avesse vinto o avesse pareggiato, la Juve andava a 8 punti, il Milan ha problemi suoi, la Roma è molto dietro. Non dico campionato finito, ma quasi. Le pay TV non vendono più abbonamenti, i giornali non fanno, e le altre TV non fanno più audience, i giornali vendono pochissimo perché all'Atalanta interessa poco a tutti, e l'azienda calcio aveva bisogno di una vittoria della Juve. Non arrivo a pensar male, però a pensar male si fa peccato. Beh, insomma, ma di solito si indovina. Mario, se non è pensar male questo, non so cosa possa essere pensar male. E il guaio è che, non dico che lei abbia completamente ragione, ma il guaio è che questo sospetto ci sta, e le dirò di più. Io l'ho già anche avanzato ieri. Non tanto sulla scorsa domenica, ma quello che temo è che vada, si adesso non dico si perpetui, ma insomma che si ripeta in prospettiva, anche a ruoli scambiati, intendiamoci, perché comunque il gioco degli anticipi e dei posticipi, visto che è fatto apposta per vendere i prodotti, oggi il calcio si chiama così, i prodotti migliori, prevederà sempre che in anticipo e in posticipo sempre o quasi sempre giochino in ordine di classifica Inter, Juventus e Milan, e quindi il rischio che questo rischio c'è, ecco. Poi visto che è quasi Natale, se riusciamo a finirla oggi sugli errori arbitrali magari, o degli assistenti, magari anche meglio. Il prossimo campionato di calcio, ecco, un'agenzia appena battuta prenderà il via la sera del 27 agosto, in modo che la prima pausa per gli impegni della nazionale arrivi già con due turni alle spalle. L'ultima giornata si giocherà invece il 16 maggio 2010, data ultima imposta dalla FIFA per garantire il riposo ai giocatori che in estate saranno impegnati ai mondiali in Sudafrica. Ricordo che i mondiali in Sudafrica del 2010 prenderanno il via l'11 giugno per concludersi l'11 luglio. Queste sono le novità principali deliberate dal Consiglio di Lega Calcio e annunciate oggi con il calendario della stagione 2009-2010, che si aprirà con la Supercoppa Italiana Team l'8 agosto a Pechino, nello stesso stadio sede dell'inaugurazione delle ultime Olimpiadi. Mirko ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. Sono indignato e anche un po' divertito dopo la telefonata dell'ascoltatore di Bergamo. Sì. Cioè, voglio dire, io faccio un calcolo dall'inizio del campionato. Sì, però Mirko mi scusi, se vuole le do il numero dell'ascoltatore di Bergamo, fatevele fuori tra voi. C'era qualcosa di diverso, per cortesia? Sono indignato anche con lei. Perfetto, dire, allora sei con me, no, con piacere. Faccio parlare, se dopo mi togliete la linea. Le do un minuto e siamo già sull'abbondante. Stavo dicendo che dall'inizio dell'anno Juventus e Milan avranno ricevuto forse 2-3 favori. L'Inter ne ha ricevuti uno a domenica, cioè 17. Tant'è vero che chi in Italia riceve favori, in Europa va male. Quindi mi sembrano assurde quello che voi dite sulla compensazione Inter-Juventus. L'Inter riceve un favore alla settimana. Ha finito? Pensavo peggio. Tocca a Marco da Livorno. Se Marco da Livorno ha intenzione di attaccarsi a Mario da Bergamo, ma tantomeno a questo Mirko da Milano, io glielo dico prima che le levo la parola. Marco. No, dottor Garanzini, buonasera. Mi faccia la cortesia. Bravo. Ecco, no, io sono tifoso interista, però non volevo attaccarmi bravissimo, a te. Bravissimo. Una breve considerazione. Sì. Al di là del fuorigioco autostradale di Mike Conn, volevo dire piedi fini, perché ha fatto un bellissimo tocco proprio. Non vorrei adesso lo vendessero al Real Madrid dicendo che non sa marcare il prossimo allenatore, vedi Roberto Carlos. Niente, volevo una semplice considerazione anche su un'analisi che fece lei tempo fa a proposito dell'Inter, che forse era troppo dipendente in fase offensiva da Ibrahimovic. Però vedendo, sono 10 giocatori che hanno segnato per l'Inter al miglior attacco della Serie A, e forse questa qui è voluta anche, cioè insomma il gioco di Mourinho prevede l'inserimento di centrocampisti e difensori. Beh, questo, anche, questo forse... per forza, Marco, perché intanto una grande squadra gioca così, no? A qualunque latitudine. E poi perché Ibrahimovic è l'uomo più importante, indubbiamente, che ha l'Inter, forse in questo momento è l'uomo importante, più importante del campionato intero, però non è un realizzatore implacabile, no? Fin qui siamo d'accordo, credo. E quindi è normale che vadano cercate altre soluzioni. Io, rispetto a quella mia teoria, sabato sera, vedendo la partita, ho trovato partita che ho visto fino all'attimo di quel gol in Berecondo del 2-1, dopodiché ho spento istantaneamente. Non le so dire quindi cosa è successo negli ultimi 10 minuti, ma mi pare che sia stata una conferma di quella mia tesi. Non è per aver ragione a ogni costo, ma in una sera in cui Ibrahimovic ha giocato la sua partita, non dico peggiore, ma la meno brillante probabilmente dell'intera stagione, l'Inter ha fatto molta, ma molta fatica sia a giocare che a segnare. E se vogliamo esaminare la doppietta di Mancò, vabbè, la seconda non sprechiamo più del fiato. Il primo gol è un liscio pazzesco di un difensore del Siena che ha la palla da rinviare comodissima, perché è stato calciato male un corner, se lo ricorda? Sì. Corner calciato male, palla corta, bassa, questo la cicca, la liscia, e Maicon che è lì in mezzo, come poteva esserci chiunque, la tocca in porta da 20 centimetri. Quindi direi che l'Inter ha fatto proprio poco e nulla dal punto di vista offensivo l'altra sera. L'unica cosa buona, veramente bella, l'ha fatta combinazione Ibrahimovic con quella traversa da fermo incredibile nel secondo tempo. Marco, grazie se non altro per aver risollevato il livello dopo il primo, ma soprattutto il secondo terrificante intervento di giornata. Tocca a Mario che ha chiamato da Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto auguri a lei e a tutta la redazione. Grazie. Senta, io sono, dire tifoso forse è esagerato, simpatizzante rossonero. Sì. E domenica sera ho visto tutte le reti entusiaste dell'arrivo di Beckham. Mm-hmm. Beckham, ecco. Però poi sento che si ferma 3 mesi. Adesso io mi chiedo, per fare ambientare un giocatore ci vogliono almeno 1 mese e mezzo, 2. Mi chiedo, ma questo qua non dovrebbe portare più scompenso all'interno dello spogliatoio? Perché francamente rimango allibito, sapendo poi che questo qua è eccellente nei cross e noi abbiamo quei colossi come Pato, come Inzaghi, che sicuramente sfrutteranno benissimo i suoi cross. Ecco, bando agli scherzi, cosa ne pensa lei? Beh, Mario, non le rispondo io, le farò rispondere nella seconda parte, oppure risponderemo insieme nella seconda parte del programma, che era già prevista proprio su questo argomento, su quella che insomma, lei ha definito, o forse non ha definito, ma insomma ha tratteggiato perfettamente, su quella che molti hanno invece appunto chiamato col suo nome, che quindi... Ma poi lo vedremo insieme che termini userà un docente di comunicazione, di televisione, eccetera, come il professor Simonelli, tra l'altro storico tifoso rossonero, e quindi un po' la posizione come la sua. La Supercoppa a Pechino, scrive Daniele, è l'ennesima baracconata, ma va? Lei dice, Daniele? No, potrebbe darsi invece che fosse un colpo di genio, più o meno appunto come questo arrivo di cui si sta parlando, di cui parleremo poi ancora in dettaglio più avanti. Nell'ultimo periodo, prima di arrivare all'intervallo, mi piacerebbe segnalare due inchieste, insomma un'intervista e un'inchiesta pubblicate oggi dalla Stampa. Oggi la Stampa, dal punto di vista dello sport, è nettamente il quotidiano più interessante da sfogliare oggi, sto dicendo oggi 23 dicembre. Uno per una lunga intervista di Roberto Beccantini a Lippi, in cui Lippi parla con una, insomma, con una sincerità non proprio abituale in lui. Vi faccio un esempio solo, ripeto, di questa lunga intervista. È pentito di essersi dimesso allora? Gli domanda Beccantini. Sì, risponde Lippi, è la prima volta. Figlio o non figlio, Gea o non Gea, feci una cavolata solenne. Sinceramente, quindi un Lippi abbastanza inedito. L'altra invece è un'inchiesta firmata da Roberto Condio sugli ultra travestiti da steward o da steward che sono che sono fissi a Catania. Il Catania è definito campo senza legge, l'ex Cibali oggi Massimino, e ci sono un po' di ricostruzioni di precedenti di questo genere. Per esempio si ricorda la frase di un giocatore dell'Albino Leffe pronunciata dopo Catania Albino Leffe 2-1 del 28 maggio 2006. Disse allora un giocatore, Bonazzi, disse dell'Albino Leffe, dice: dopo quello che è successo nell'intervallo abbiamo pensato a salvare la pelle, non a rimediare alla sconfitta. E poi ci sono dei altri precedenti gravi. Un anno fa dei tifosi o degli ultra, per l'appunto, con le pettorine gialle di servizio aggredirono i giocatori della Sampdoria nel tunnel. Si è visto cos'è accaduto domenica con la Roma, ma finora dalla Lega sono arrivate soltanto delle multe, mai dei provvedimenti più seri, e delle multe tra l'altro non di particolare entità. Una mail firmata Fede Alessandria e dice: date spazio a chi non la pensa come voi. Io apprezzo la finale a Pechino perché il tentativo di rendere utile con ritorni di immagine e denaro una partita da poco. Allora, è una riflessione intelligente questa. In effetti è talmente una partita da poco la Supercoppa italiana che l'idea di valorizzarla, di farla fruttare non è male. Quando è stata giocata all'estero, anche in epoche abbastanza lontane, insomma, non mi sembra che abbia mai creato queste attese messianiche. Ma in ogni caso è chiaro che diamo spazio a chi non la pensa come noi, se a chi non la pensa come me, nella fattispecie. Se ogni tanto tronco qualche intervento come quello di prima, è perché c'è la tutela dello spettatore, dell'ascoltatore che non interviene a casa. Questa viene prima di ogni altra cosa, e la tutela comprende soprattutto il fatto che se un programma cerca di distinguersi dalla feccia che c'è in giro su radio e televisioni, soprattutto private e soprattutto alla sera del lunedì, beh, insomma, non è che può essere vanificato dal primo che passa. Certamente non è il primo che passa, anzi, il professor Giorgio Simonelli. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao. Arrivi dopo questa intemerata perché vabbè, insomma, basta due guardaline, no? e si riscatenano le vecchie fazioni, le vecchie faide a livelli sinceramente sempre più imbarazzanti. Invece a te, caro professore, sia come docente di storia della televisione e della comunicazione all'Università Cattolica di Milano, sia come milanista storico, non posso non domandare qualche riflessione, oltre che una valutazione generale, su questo anziano. Io la metterei così. Stamattina sul Sole ho scritto così, mi sono permesso il vezzo di non citarlo. Su questo anziano centrocampista inglese, attualmente in forza al Galaxy o cosa di Los Angeles, e in prestito temporaneo, a quanto pare, a una società di Milano. Ma le riflessioni, allora facciamo due riflessioni diverse, una da professore e una da tifoso. Ecco, allora, da professore, entrambe le riflessioni sono preoccupate, comunque, sì, per motivi diversi. Sì. La prima è che, adesso non per fare il professore sempre, ma mi ricorda un bellissimo racconto di Jorge Luis Borges che si intitola Esse est percipi, e che è nelle cronache di Bustos Domecq. Si racconta di questo Bustos Domecq che fa indagini su casi strani, è un racconto degli anni 30, e si accorge che lo stadio del River Plate è completamente degradato, in disuso, e si chiede come mai, e fa una lunga inchiesta e poi viene a capo del suo problema, scoprendo che il calcio non è più uno sport che si pratica, che si giochi davvero, ma è un genere drammatico recitato ad uso e consumo delle radio e delle cineprese. Ecco, mi è venuto in mente questo racconto di Borges, scritto moltissimi anni fa, ecco, quando il calcio invece si giocava e come, ma si continua a giocare, perché mi sembra che si sia costruito un grande, oggi si usa dire evento mediatico, comunque cioè, un grande teatrino, teatrone, attorno veramente al nulla, ecco, proprio non c'è nulla. Ora abbiamo visto molte cose già su questa strada, però nelle altre cose, che so, mi viene in mente la presentazione di Maradona, piuttosto che la presentazione del primo Milan berlusconiano, vuol dire, c'era sempre l'attesa di qualcosa di vero, ecco, anche se gonfiata, pompata. Scusami, mi sembra che veramente non ci sia nulla, come si dice a Milano, come ho letto che oggi anche scrive in prima pagina La Stampa, insomma, ci sia sostanzialmente della fuffa. No? C'era la spettacolarizzazione allora di qualcosa che comunque aveva una sostanza. Sì. Sostanza di Maradona la conosciamo, a parte il fatto che poi fu la prima presentazione fatta a quella maniera, e quindi se non altro, come tutti i primi eventi, aveva, no, una suggestione sua. Sì, ma aveva soprattutto la scommessa, perché poteva essere un flop anche Maradona, no? Quando Maradona arrivò in Italia, adesso non è che tutti scommettevano su quello che avrebbe fatto, te ricordi la prima partita, certo, di Maradona a Verona, completamente annientato, se ricordo bene, da un certo Briegel. Però il coraggio della scommessa di fare un grande evento è una scommessa vinta, perché poi, insomma, la presenza di Maradona nel bene, nel male, nella storia del calcio è qualcosa che resta, insomma, certo. La presentazione era in proporzione rispetto a quello che poi è stato. Basta andare a vedere il film di Kusturica, che Kusturica ha girato su Maradona, per capire cos'è il fenomeno Maradona, certo. Qui mi sembra che si sia costruito un'enormità su una cosa che, insomma, Non so, io scommetto che non sarà Maradona, ecco. Senti, visto che sei ancora sul côté mediatico, e che poi tu hai subito arricchito con una citazione culturale, perché sprecare Borges per Beckham credo che comincia tutte e due per via, ecco. Sì, ecco, già, hanno giusto questo in comune. No, ma hai citato questo articolo delizioso di Massimo Gremellini stamane, come sempre succede, o quasi sempre succede, allora lo citerei velocemente, perché mi sembra che ci stia, tanto il tempo non ci manca. Scrive Massimo Gremellini: ancora qualche mese fa la Prodi in Italia di coniugi Beckham, evento sulla cui importanza storica e culturale non mi starò certo a dilungare, avrebbe fermato il respiro della penisola. Migliaia di fan si sarebbero assiepati sotto l'albergo milanese della coppia, cullando il sogno di sfiorare il bicipite griffato del calciatore e di respirare da vicino gli effluvi della crema a base di cacca d'usignolo con cui la sua sposa pare sia solita impiastricciarsi la faccia. I media, sempre vicini ai desideri del popolo, avevano impiantato un formidabile circo d'accoglienza. Conferenze stampa, dirette TV, legioni di fotografi pronti a immolare l'alluce sotto una macchina della scorta pur di documentare la visita della ditta coniugale che meglio di ogni altra ha indossato il valore dominante di un'epoca, il nulla patinato. Questa la trovo fantastica. Invece è accaduto l'imprevisto, ed è qui che poi arriva la prossima domanda, professore. Invece è accaduto l'imprevisto. Sotto l'albergo dei Beckham c'era solo qualche curioso pagato dalla produzione. Durante l'esposizione allo stadio del prezioso manufatto, i tifosi del Milan non hanno sciolto inni di ringraziamento, ma si sono lamentati dicendo che avrebbero preferito un calciatore vero. E la signora Victoria, unica cantante al mondo di cui nessuno abbia mai sentito la voce, ha potuto compiere il suo giro turistico tra le boutique del centro senza essere disturbata neppure da un venditore di caldarroste. Chi ha visto i Beckham solcare la città ad ampie falcate da fotomodelli sostiene che facevano lo stesso effetto di una coppia di etruschi o di crociati, pezzi di passato proiettati in un mondo che non è più il loro, perché non sa più che farsene della fuffa, neanche come argomento d'evasione. Io credo che un 9 glielo potremmo parlare. Forse anche dal 9 al 10. Veramente straordinario. Straordinario per la cattiveria lieve, comunque, no? E oltre che per la scrittura fantastica. Ecco, questo, restiamo all'aspetto mediatico, poi arriveremo a quello invece del rossonero storico. È stata un'operazione veramente puramente mediatica, ma costruita sul nulla, non solo sul nulla tecnico, perché questo poi è un altro discorso che esaminiamo dopo, ma sul nulla come vetro, nel senso che alla gente non gliene può fregare di meno di Beckham e signora, o no? No, direi proprio di no, intanto perché, siccome queste cose sono fatte per la televisione, se qualcuno avesse avuto un minimo di interesse per l'avvenimento, se lo vedeva in televisione, non c'era nessun motivo per andare a vedere dal vivo, insomma, si va ad accogliere un calciatore, se si ha, come dire, veramente un'identificazione, un'immedesimazione in quel calciatore e in quello che quel calciatore può dare alla squadra. E qui mi sembra che sia prevalso un sano scetticismo, ecco, perché insomma, per quale motivo un tifoso dovrebbe in una serata oltretutto piuttosto freddina mettersi a caccia di un personaggio come Beckham, visto che abbiamo, possiamo dirlo, una certa età, ecco, mi è venuto in mente un episodio che forse tu ricordi, era il lontano 1961 e il Milan acquistò anche allora, non a tempo determinato, l'aveva acquistato a tempo indeterminato, poi lo cacciò via presto, un certo Jimmy Greaves. Come no? Che non fece sfracelli come aveva fatto invece in Inghilterra. L'arrivo di Greaves e signora biondissima, biondona, no? Ecco, fu un bagno di folla che si ricorda ancora, no? E che sorprese molto un personaggio a cui tu sei molto legato, che era Nereo Rocco. Come no? Che si chiese, ma e il suo scetticismo insomma cominciò lì nei confronti di Greaves, forse, perché questo bagno di folla non lo gradì molto. È vero. Giorgio. Mi sembra che disse ai dirigenti del Milan, ma perché non abbiamo preso uno come Scagnellato, certo, che ci serviva di più? Lo, no? disse seriamente, cercò. Però voglio dire, all'epoca Maradona, tutto, insomma, l'idea di vedere, di accogliere festosamente un uomo che è destinato a sollevare o risollevare le sorti ha un senso, ma insomma chi può pensare che Beckham abbia questa funzione salvifica, e quindi perché andarlo a vedere? Al massimo si può scatenare una piccola curiosità, certo, che viene appagata davanti al televisore. Scrive Ugo: ma mi spiegate a chi dà fastidio Beckham? Ma scandalizzatevi per le società quotate in borsa e per le porcherie del calcio. Infatti per quelle ci scandalizziamo, Ugo, su Beckham ci spanciamo da ridere, no? Che è quello che stiamo facendo, professore, no? Mi pare è molto ma molto diverso. Però insomma, qualche considerazione la vogliamo fare. Anche perché insomma, se sono state dedicate alcune pagine di giornali a Beckham, se sono state dedicate alcune ore di televisione, se qualche giornalista ha preso sul serio la cosa, a differenza di Gramellini, qualcuno ha preso sul serio. Ma tanti, ma troppi, ma questa è la cosa inquietante. Non ce la stiamo prendendo. Per rispondere all'ascoltatore. Ma certo, ce la stiamo prendendo col circo mediatico noi, non con. Professore, tra un paio di minutini entri in scena invece come tifoso storico. Il primo dei due minuti vorrei investirlo, prima del traffico, rapidissimamente, in un aggiornamento delle condizioni di Totti, che ha sostenuto un secondo esame ed è più grave del previsto. Ne ha almeno per 60 giorni, scrive l'agenzia, perché la lesione muscolare a bicipite femorale è più grave del previsto, quindi salterà tra le 7 e le 9 partite di campionato. È difficilissimo, quasi impossibile recupero per l'andata Arsenal-Roma, ed è da valutare, scrive l'ANSA, la disponibilità per il ritorno dell'11 marzo, quindi siamo sui 2 mesi e mezzo. Se per quello, altro capitolo anticipato prima, l'inizio del campionato, il giorno 27 agosto, quello che l'ANSA non specificava e che da un breve controllo ho riscontrato, il 27 agosto è un giovedì, quindi il campionato partirà di giovedì e non prevederà più la sosta dell'Epifania, come per esempio quest'anno. Si tornerà in campo proprio il 6 gennaio per fare in tempo a finire per il 16 maggio, termine ultimo che la FIFA ha fissato per i campionati alle vigilia del Mondiale. Torniamo in onda col professor Giorgio Simonelli, che a questo punto cambia giacchetta, come faceva una volta Galliani, no? Da presidente di Lega e amministratore delegato del Milan, cambia giacchetta e adesso indossa una vecchia, magari un po' consunta per via della lunga militanza, giacchetta rossonera. Magari col numero 10. Ma di quelli dei tempi, eh? Sì, sì. Quelli che dicevi prima, in altre parole. Sì, numero 10 di quell'anno. No, allora, intanto posso fare una considerazione a metà tra il tifoso e l'osservatore di cose calcistico-mediatiche. Sì. Perché una delle altre preoccupazioni che questa vicenda Beckham mi ha suscitato è questa, che praticamente tra la settimana scorsa e fin da lunedì è scomparso un pezzo di calcio giocato che, insomma, forse secondo me conta ancora qualcosa. Cioè, il fatto che il Manchester United abbia vinto la Coppa, diciamo, del mondo per club, no? Cioè, forse a mio parere meritava un po' più di attenzione, no? Questo anche per rispondere al signore che prima, insomma, ci accusava di dare troppa enfasi. Perché, cioè, queste cose qui poi non solo valorizzano e ipervalorizzano e sopravvalutano certi fenomeni Beckham, ma siccome lo spazio è quello che è, finiscono poi per togliere spazio a cose che sarebbero più interessanti. Io credo che la finale, per quanto, insomma, forse non la più prestigiosa della storia, però una finale mondiale è sempre una finale mondiale. Insomma, ecco, il fatto che anche l'informazione sia occupata poco di questa cosa è un po' un segno di tempi che, come dire, insomma, non sono i migliori. Anche di provincialismo, comunque, perché quando quelle finali lì le fa una squadra italiana, cioè in maniera clamorosa, le edizioni speciali, no? Se gioca il Manchester United piuttosto che il Barcellona, ok, è una riga in cronaca, come si dice. Ecco, poi un'altra cosa è anche, insomma, che il calcio rappresentato è sempre più di proprietà di qualcuno, cioè di chi ha i diritti. Allora, l'anno scorso chi aveva i diritti ha valorizzato molto la finale quella in cui c'era il Milan, chi non aveva i diritti l'aveva un po' snobbata, salvo poi ritornare. Cioè, mi sembra che, cioè, ci siano seri motivi per preoccuparsi. Poi le mie preoccupazioni di tifoso, insomma, queste sono anche, come dire, più comprensibili, perché da un punto di vista tecnico-tattico, come si diceva una volta, insomma, non è che l'inserimento di Beckham abbia molto senso in questa squadra. A ciò si aggiunge quello che diceva saggiamente un signore che ha telefonato prima, insomma, che se il tempo medio di ambientamento di un calciatore è un mese e mezzo, non si capisce cosa ci faccia Beckham con un contratto di questo tipo nella squadra. Anche tu, che da molto tempo ti occupi di calcio, ti ricordi che negli anni passati si diceva che un calciatore, per inserirsi bene in una squadra, ci impiegava addirittura un anno, certo, no? Che il primo anno era difficile per un anno in genere è di ambientamento, poi più uno è bravo, più uno è utile e più uno è esperto, e Beckham lo è, perché, insomma, ha girato un po' di società e più questi tempi si riducono, però si riducono entro certi limiti, ma vedi. Poi c'è il problema del cross, questo veramente è un problema. Il cross a banana, che d'altra parte è l'unica roba che ha sempre saputo fare Beca, gliela riconosceva persino George Best questa, come qualità. Il problema però poi è chi li butta dentro, certo. A meno che finiscano le vicissitudini, come dire, fisiche e anche mediatiche di Boriello. Certo, e allora forse il giocatore coppia che se ne potrebbe giovare di più. Però vedi, è tutto relativo. Pierre, per esempio, scrive: espertoni, ma quanti anni hanno, visto che Beckham è anziano, i Totti e i Del Piero con cui imbrattate i vostri giornali? Ma tu pensi, oggi ci deve essere un raduno di dementi, no? Che circolano da queste parti. Cioè, io credo che Totti e Del Piero possono querelare, no? Per un paragone con Beckham, io penso, a parità di età. Beh, ma perché, insomma, è la continuità con cui si gioca. Sono anche le categorie. Poi comunque, non, per esempio, diciamo la verità, quanti esperti avevano dato Del Piero ormai in fase calante, certo, e invece non lo è? No, ma su. Allora, se vogliamo fare il paragone, c'è qualcuno che gioca sempre con la nostra maglia e ne ha 40 di anni, ecco, quindi, insomma, questo, però, sì, insomma, è un'altra, come dire, è un altro curriculum, ecco, rispetto a quello di Beckham, perché sì. Beckham più che l'età spaventa un po' l'ultima parte del suo curriculum. Vi aspetto tra qualche settimana, scrive un altro ascoltatore, questo non firma, ma oggi ormai facciamo finta che sia carnevale, visto anche l'argomento della puntata. Vi aspetto tra qualche settimana. Se Beckham dovesse fare bene, evitate di dire che lo sapevate. Qui si introduce il punto vero, secondo me, il punto vero ha già questi, ma quello definitivo, Giorgio, nel senso che al momento risulta che Beckham si fermerà, cioè ci farà la grazia di fermarsi in paese per un paio di mesetti, no? E quindi ha già deciso comunque, cioè, il contratto è un prestito, in altre parole che il Galaxy fa al Milan per un paio di mesi. Non ti pare questa l'ultima abnormità o enormità di questa vicenda? Questa è la cosa, perché proprio per rispondere anche all'ultima obiezione, sì. È vero che io non dirò mai, se Beckham giocasse bene poi sarei il primo io ad essere felice, no? Ma sarebbe ancora peggio, perché pensa cosa accadrebbe se Beckham si inserisse, giocasse bene, si rivelasse, non dico indispensabile ma utile alla squadra, e poi se ne dovesse andare, che figura facciamo? Sarebbe peggio ancora. Io credo proprio di sì, e credo che questo sia un altro aspetto abbastanza incredibile. Questo è uno dei due più incredibili in assoluto per me. L'altro, che sottolineavo già nei giorni scorsi, è questo: che il Milan, insomma, Galliani, ha sostenuto più di una volta con fierezza. Non è stato il Milan a scegliere Beckham, è stato Beckham a scegliere il Milan. Allora, io la mia risposta è: la prima è e te credo. Come? C'è uno che sta giocando in una squadretta di Los Angeles che non conosce nessuno, decide di venire a Milano perché deve esportare un altro po' di moda, e i suoi sponsor stilisti milanesi lo reclamano a forza, lui e la leggendaria cantante di cui parlava Gramellini, lo credo anch'io che è lui che dice, però siamo all'ho visto prima io delle vecchie, o no? O sbaglio? No, perché non, è una cosa proprio di cui non si capisce il senso. Voglio raccontarti un'altra cosa, io poi se mi dai la stura come tifoso sono una miniera di aneddoti e di storielle, posso andare avanti, poi fermami quando esagero. Ma mi ricordo un'altra cosa, Kroll, se te lo ricordi, no? Il mitico Rude Kroll dell'olandese. Certo. Quando arrivò a Napoli e rischiò poi di vincere uno scudetto col Napoli, aveva già i suoi anni, arrivava dal Canada, se ricordo bene. C'era un'intervista bellissima, ricordo, gli chiedo: ma perché è venuto a giocare a Napoli in una squadra che non aveva neanche grande credito, lasciando il Canada dove potevo guadagnare molto di più? Dice: perché non mi piaceva giocare in stadi semivuoti, non c'era nessuno che veniva a vederci giocare. Qui, da quando siamo tra le prime in classifica, ci sono ogni domenica 80.000 persone, e giocare al pallone è bello se c'è la gente che ti guarda. Certo. Che mi era sembrata una dichiarazione stupenda da un punto di vista proprio culturale. Allora, tutto quello aveva un senso, no? Un rientro nel calcio, nel calcio più agonistico dopo una partita. Questo invece è una cosa che appunto con questa idea dell'andata e ritorno, per cui se va male va male, se dovesse andare bene dal punto di vista calcistico si interromperà sul più bello. Allora è un'altra cosa, è una cosa che col calcio non ha molto a che fare, ha a che fare con altre dinamiche, con certo. Altre logiche, però sono logiche che, diciamocela così, a noi tifosi non interessano. Ci interessa pochissimo. Me lo immagino bene. Volevo far intervenire ancora un ascoltatore, purché molto velocemente, perché siamo in chiusura. Massimo da Genova, buongiorno. Massimo forse si è stancato di aspettare, perché in effetti l'è parcheggiato lì da un po' e mi dispiace. D'altra parte oggi fioccavano anche notizie. L'ultima è che l'ANSA è in surmenage per il natalizio, per cui ha sbagliato la data prima. Il prossimo campionato di calcio prenderà in via non il 27 agosto, che come vi ho appena detto era un giovedì e quindi mi sembrava strano, ma la sera del 23 agosto, che è invece una domenica, quindi con anticipo al 22. Prepariamoci, caro Giorgio, a un'estate che finisce prima e che per far ricominciare il calcio un pochino in anticipo via dell'anno mondiale. Io ti ringrazio davvero tanto per averci grazie. Intrattenuto e divertito con questa grazie vicenda. Grazie a voi tutti. Grazie, grazie ancora al professor Simonelli. Un ascoltatore tra i tanti che hanno scritto questa mail di firmato Oliviero Tacchella è deliziosa. Beckham. E più o meno suona così: e ora Beckham che alloggerà a Buckingham Palace, quanti tifosi nuovi richiamerà allo stadio col suo fascino hollywoodiano? Saranno i giardinieri di Versailles a preparare l'erba di San Siro, eccetera, eccetera, eccetera. E questo povero ascoltatore dice: dovrò forse buttare il mio vecchio cuscino rossonero comprato a Milan Celtic del 69, perché ormai sarà demodé con quelle strisce rossonere strette strette come la bella maglia di quei tempi. Grazie a Gigi Borghi in redazione, grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo domani la puntata è dedicata al calcio giovanile, ai bambini, agli istruttori, ai genitori, a come ci si avvicina al calcio anche in tenera età, con l'intervento di Massimo Giacomini. Buon pomeriggio.